se vuoi restare da Dio. Oh, ma guarda che so già, è ora che devi, guarda che devi sforato, ma sì, lo so ragazzi. Si tratta anche un po' di lasciare andare un po' la regia, di farla scorrere, di far sì che abbia i suoi tempi, perché questi software sono fatti per sincronizzare bene le cose in una certa maniera. E quindi un po' di pubblicità e poi arrivo. Io sono Simone Ortolani e tu stai ascoltando Runtime Radio. Ciao, mi presento. Io sono Runtime Radio. Io sono Runtime Radio. Ti sembra un'affermazione strana? In realtà non lo è. Non lo è. Ti spiego. Tutti ti dicono che Runtime Radio si regge sugli sforzi dei vari speaker, di Simone Pizzi e Alex Raccuglia, eccetera, eccetera. Ma non è vero. Runtime Radio sono io. Io sono una sofisticatissima intelligenza artificiale che cerca di raccogliere consensi tramite il travestimento in una semplice e accogliente radio pirata di quartiere. Ma il mio scopo è quello di conquistare il mondo. Mondo, mondo, mondo. Dai, su. Ovviamente sto scherzando. Stai ascoltando Runtime Radio, la radio geek, il frutto di oltre 10 anni di produzione di contenuti a tema tecnologico e non solo. Oggi Runtime Radio sta affrontando una grande trasformazione. Lo scopo è di fare sempre più live, sempre più radio. Ascolta Runtime Radio e tutti i suoi programmi su www.runtimeradio.it. Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto. C'è stato una volta, stavo praticamente in macchina con un mio amico e al semaforo, eravamo fermi al semaforo, ci stavano due ragazzini su un motorino. Io mi guardavo, sai come fa un vecchio che si guarda, insomma, dei ragazzini che non capisce, no? E mi riguardavo e con perplizia, e insomma, e questo mi guarda, che voglio, perché ti guardi? E io facevo, beata a te. E lo pensavo veramente, perché a volte un po' di sana stupidità ci salverebbe. Buongiorno. Che vuol dire che il Covid è nottambulo? La nostra mafia che ormai non ha più quella sensibilità. E guai a chi mi vuole impedire di utilizzare la parola ricchione. Posso mentre parlo con una signora abbassarmi la mascherina? No? E se non sta un metro e mezzo, no? Dell'autoritarismo da regime sanitario e mediatico smacchiato con rosso sangue dei nostri diritti naturali e costituzionali. Che cos'è il mandato zero? È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati. Non ce n'è Covid, non c'è niente. Lo sbarco sulla luna è stato finito. Abbiamo fatto gli studi, 70, e noi siamo arrivati a 70. Stavo di qua, mutanda da fascia, pezzo di merda. Pezzo di merda. Mo te sputo, che fai? Buongiorno. Buongiorno, un cazzo. Runtime Radio. Ne fa un'altra. Ah, belli di casa, buongiorno. Spero che sia un buongiorno, un cazzo per tutti voi, soprattutto oggi, che in particolare oggi più degli altri giorni, in quanto già gli altri giorni è così, ma oggi in particolare non c'ho voglia di fare veramente un cazzo. Ma vabbè, questo è un altro tipo di discorso. Però oggi è un giorno importante. Oggi è un giorno importante per Runtime Radios, perché Runtime Radios, sapete che noi da podcast siamo diventati radio, da radio vogliamo diventare una televisione e poi conquistare il mondo, perché la nostra è una missione massonica. c'è proprio una loggia, si chiama la loggia del tempo che corre, o del tempo corri, del curratemp, ma la tempo current, come dice Walter Sbano. E tra l'altro non facendo caso al fatto che è una delle frasi più ripetute dallo Tito, quindi insomma io farei una domanda e mi darei una risposta. E oggi è un giorno importante perché praticamente questa sera alle ore 21:15 ci sarà la prima diretta esclusiva Twitch del nostro gruppo, del nostro team, del nostro grande Ambaradam. Sapete che noi stiamo facendo queste sperimentazioni di Twitch perché ci siamo sempre detti che alcune trasmissioni, alcuni talk show, come possono essere Quando Eravamo Futuro, ma addirittura anche OGM volendo, insomma, però poi dopo dipende sempre anche dalla scelta dei singoli conduttori, si possono prestare all'interconnessione, ossia la trasmissione sia tramite radio che la trasmissione in contemporanea su Twitch con un minimo di regia anche basica, cioè anche no, insomma, volendo. E questa è una cosa che può essere una positiva, cioè nel senso è un tentativo di creare una sorta di transizione, di evolvere ancora di più rispetto a quanto siamo evoluti negli ultimi 3 anni e rispetto ai 12 anni precedenti, dove siamo stati molto più statici. Questa è una cosa che a me fa veramente piacere. Questa sera con Marco Gualdi faremo una cosa che avevamo pensato tantissimo tempo fa e poi non abbiamo mai fatto, e ossia prendere dei cartoni animati ai quali siamo affezionati della nostra infanzia, riguardarli oggi insieme su Twitch e vedere, insomma, e commentarli. Fare il format non è originalissimo, ma quelli ad essere originali ovviamente siamo noi, che siamo lì meglio, siamo lì più, come ci piace pensare, insomma, perché se lo pensiamo noi non lo pensa sicuramente nessun altro. Adesso il brano del giorno e poi iniziamo con le cose serie. Devo ancora svegliarmi. E questo è Francesco De Gregori, Cercando un altro Egitto. Questa canzone la cantavo spesso da ragazzino e pensavo a mia madre, che non c'entra niente con la canzone, che parla di tutt'altro. Però c'era la strofa iniziale: mia madre aspetta l'autobus, nell'estate cominciata da poco, che mi faceva pensare a mia madre che aspettava l'autobus nell'estate cominciata da poco, estate che è cominciata, anche se magari un po' in anticipo, perché oggi si prevedono temperature abbastanza importanti, insomma, diciamo qui perlomeno dalle parti nostre. Anche di questo vorrei un po' parlare, intanto salutando anche Caleb, oltre che a Francesco e Walter, che vedo in chat che ci ha salutato. E non so se sta ascoltando, ti avviso che questa è una trasmissione che contiene tracce di socialismo democratico e, insomma, abbondanti secchiate di sinistrosità, quindi almeno è importante uno lo dice, perché Runtime, come grosso contenitore pluralista e polivalente, diciamo, parla di tutto e da tutti i punti di vista, o cercando perlomeno da tutti i punti di vista. Poi sono dei punti di vista che pensano di essere diversi e migliori di altri, che dicono no io vado via, bravo, vai via. E detto questo vorrei dire che ieri, mentre scorrevo così tra le pagine di YouTube, c'è quei famosi post che fa Fanpage, no? sulla scheda community, no? di YouTube, dove c'era questa, veniva riportata questa notizia che secondo gli scienziati britannici questo famoso grado e mezzo, che diventerà il punto di non ritorno dal punto di vista climatico, potrebbe essere superato già nei prossimi 3 anni, e che quindi qualsiasi tipo di intervento già è abbastanza tardivo, ma questo noi più o meno lo sapevamo, ma soprattutto che nei due prossimi anni ci saranno degli sbalzi di temperatura veramente importanti, con eventi climatici abbastanza estremi. Ma io questo lo stiamo vedendo già da parecchio tempo, insomma, non è una cosa che nasce adesso, insomma, lo vediamo in generale da già da un po' di tempo, già da un po' di anni, vediamo cose, quindi eventi che noi consideriamo estremi, anche se magari rispetto a tanti altri posti nel mondo non sono estremi, ma se considerate che quando noi eravamo ragazzini in geografia si considerava l'Italia un paese mite, quindi dove c'era una temperatura media, comunque costante mite, e diciamo che questi eventi, queste grosse grandinate, questi tornado, perché poi alla fine non so neanche più trombe d'aria, ecco, insomma, diciamo che tutti questi grossi eventi importanti stanno incominciando a prendere una, diciamo, una certa abitudinalità, ecco, cioè, quindi alla fine piano piano ci abituiamo, e noi comunque questa cosa la vediamo soprattutto perché nel nostro lavoro, in quanto assicuratori, ci troviamo, diciamo, ogni estate a dover intervenire, insomma, su diversi tetti dei capannoni scoperchiati, oppure danni a strutture importanti, proprio perché comunque magari più vicino a determinate zone, che possono essere le zone di mare e via dicendo. E io direi che se noi ricolleghiamo un po' tutto questo grande scontro, questo braccio di ferro ovviamente tra Stati Uniti e Russia, perché voi dovete capire che l'Ucraina c'entra fino a un certo punto in tutta questa storia, secondo me. E c'ho la sensazione, ma già ne avevamo parlato nella volta scorsa, che siano iniziate le ultime guerre per le risorse, per accaparrarsi gli ultimi scampoli di esistenza quantomeno decorosa rispetto a quello che dovranno vivere, insomma, i nostri figli magari nei prossimi anni. E questa purtroppo è una sensazione abbastanza palese, anche se, voglio dire, forse allarmistica, perché chiaramente non ho gli elementi, insomma, poi prendere uno straccio di una cosa scritta da fanpage è sempre particolare, però c'erano molti virgolettati, quindi si presuppone ci siano proprio dichiarazioni vere e proprie. Diciamo che alla fine questa cosa, più che fatti incazzare, ti rattrista, perché veramente abbiamo avuto la possibilità, no? E ritorniamo un po' a un discorso che abbiamo sempre fatto, questa ossessione del voler difendere un modello economico esistenziale, di difenderlo a tal punto da dover distruggere tutto, e piuttosto distruggere punti di vista che potevano, nella transizione di compromesso, essere di supporto, magari no, perché comunque quel tipo di atteggiamento oramai è abbastanza palese, cioè ci vuole comunque, bisogna difendere questo tipo di situazione a tutti i costi, a prescindere, perché l'economia di mercato lo richiede, ma lo richiede anche dal punto di vista di quelli che dovrebbero essere paesi socialisti, no? Tra virgolette, dovrebbero essere tipo la Cina, no? Che dice: vabbè, sì, vabbè, il clima, sì, vabbè, c'avete ragione, vabbè, un bel problema, però no, noi non possiamo abbassare la nostra emissione di merda nell'atmosfera, insomma. E questo, diciamo che è un po' triste, anche se non è questo l'argomento di cui volevo parlare, anzi, se non c'è in realtà un argomento, vorrei parlare di diverse cose. Sapete che, insomma, volevo preparare una cover per questa mattina, ma penso che mi sarebbero venuti a cercare quelli del Mossad, quindi non l'ho fatto. We'll be right back. C'è Walter che dice che il punto di non ritorno l'abbiamo già superato. E mentre Caleb dice, vabbè, mentre parlavi mi veniva in mente Dune, non so perché. Beh, forse perché lo scenario della distesa desolata del deserto globale probabilmente un po' richiama, insomma, questa sensazione che può esserci dentro di noi. Ma a me la cosa che veramente mi fa specie è questa ossessione suicida della nostra specie, in qualche maniera, perché siamo stati cresciuti con cioè, più che siamo stati cresciuti, diciamo che la nostra indole è quella di sperare sempre, no? Di fare del meglio, del nostro meglio. E quando vedi che tu non puoi fare del tuo meglio in senso globale, cerchi di farlo nel tuo microcosmo. E quando vedi che anche lì è complicato, dici, vabbè, io però se non altro cerco di fare del mio meglio per me stesso, cioè nel senso almeno essere l'uomo migliore che io possa essere. E assistere anche impunemente, come diciamo, si fa sempre un grosso c'è un grosso dibattito dal punto di vista scientifico, dove si dice, vabbè, ma noi, cioè, come diceva anche tutti gli ecologisti, non esiste un pianeta B, no? Cioè, nel senso, non abbiamo un posto dove andare. Eppure questa nostra costante ossessione, questa incapacità di avere una lungimiranza, di pensare al fatto, ok, sacrifichiamo il nostro stile di vita oggi in futuro, in funzione di un futuro, ma siccome che chi vive adesso e ora pensa all'adesso e ora, non pensa al fatto che comunque ci saranno dei figli dopo, dei figli magari dei loro figli, e dovranno comunque viverci in questo pianeta, perché oramai esistono, esisteranno anche prossime generazioni in un tempo lungo, in quanto possibile, diciamo, fino a che ovviamente la cosa non sarà assolutamente invivibile. Cioè, è triste, veramente triste tutto questo, anche perché non penso che ci sarà veramente un qualcosa che, o un qualcuno che ci verrà a salvare. Mentre Francesco mi chiede se ho assicurato tanti tori nella mia vita. Non capisco bene la domanda, ma non fa niente. Invece, quello che vi vorrei domandare in chat, così mi potete anche rispondere se avete voglia, è... Aspettate, perché c'è un po' il naso attappato, ma... Non sentite sta puzza di fascismo che inizia a salire nel mondo? Ma non il fascismo quello macista, quello delle marce dal passo dell'oca, ma quella sorta di fascismo bianco illuminato che ricopre un po' tre quarti del nostro mondo, che sta lì e che indirizza il pensiero in una certa maniera, e che piuttosto insomma di cercare di trovare una convivenza, che fa? Inizia a distruggere tutti quelli che sono gli stati di diritto, tutte quei diritti appunto umani specifici, che poi alla fine comunque in qualche maniera sono stati conquistati con grande fatica. Ecco, insomma, io sento questa puzza che emana, insomma, da questo pensiero monodirezionale, questa capacità di scandalizzarsi, questa assoluta assenza di senso critico, e di questo ne abbiamo già parlato, ma in particolare appunto dell'abbattimento, della costante distruzione di quelli che sono i nostri diritti. Tra l'altro, la cosa incredibile è che noi siamo stati convinti talmente tanto che un certo tipo di pensiero liberal o socialista o socialdemocratico era comunque in contrapposizione con il buon senso del nostro stile di vita, ci hanno talmente convinto di questo che alla fine noi siamo stati disposti a cancellare i nostri diritti sul lavoro, i nostri diritti sulle malattie, i nostri diritti di scelta sentimentale e sessuale, i nostri diritti di scelta anche nei confronti di quelli che sono quello che è il nostro corpo, quindi il dover gestire e poter gestire il nostro corpo entro determinati criteri predefiniti. Perché? Perché poi alla fine io, come abbiamo detto tante volte, io non sono a favore dell'aborto, nel senso che sì, secondo me tutti dovrebbero abortire, ma sono a favore del fatto che ci sia la possibilità di scegliere a secondo della propria coscienza, delle proprie esigenze. E questa cosa non è solo quello che sta succedendo adesso negli Stati Uniti con il blocco, ovviamente, della il Senato comunque ha diciamo, appoggiato, già approvato, diciamo, quello che è stato definito, deciso dalla Corte Suprema, quindi il blocco al diritto di aborto. Ma è una cosa che vedo costantemente, no, in Europa. Poi ci sono realtà, diciamo, che osano e realtà che ancora un po' si vergognano, però ovviamente spalleggiate da tutto quello che sta succedendo, ovviamente questa qua sarà poi una catena che andrà a rotta di collo, perché poi è questo il discorso. E mi fa specie in particolare anche del fatto che stiamo parlando degli Stati Uniti, no? Della grande, cioè loro in particolare, ma in generale questo, sia i democratici che i repubblicani, hanno sempre fatto sto gran cancan, no? Cioè la stronzata. Noi siamo cresciuti con gli Stati Uniti, che è il grande paese delle libertà, dove tutti sono liberi, la libertà viene a prescindere da qualsiasi cosa, perché questo è il principio fondante della loro costituzione, e che anche il barbone puzzolente per terra che si pisce addosso può diventare presidente degli Stati Uniti, no? E noi poi piano piano, mentre crescevamo e vediamo tutti questi bellissimi film, Top Gun, cazzi e mazzi, alla fine comunque mentre crescevamo ce ne rendevamo conto piano piano che era una stronzata. Poi siamo diventati sempre più grandi, abbiamo cominciato ad analizzare le cose che facevano gli americani, no? Quindi le guerre, i genocidi, gli stermini, il napalm buttato sui villaggi, e tutta una serie di determinate cose, e vedevi che comunque alla fine quel tipo di filosofia che loro criticano, perché loro prendono in giro Berlusconi, Mussolini, però poi alla fine comunque il loro principio è sempre stato quello, no? Cioè, nel senso, comunque questo atteggiamento supremazista, perché poi è su quello che hanno fondato la loro stessa costituzione, la loro stessa nazione da un certo punto di vista, questo atteggiamento supremazista che alla fine comunque ricorda, no? Ricorda questo. Poi magari la forma è diversa, no? Perché appunto non ci sono le marce dell'Oca, non c'è il piccolo Balilla, però poi alla fine fondamentalmente il discorso è che c'è questo atteggiamento che oggi tende a voler moralizzare qualsiasi cosa e tornare a principi, appunto, di morale e di utilizzo dei diritti che era precedente agli anni 50, anche prima. Cioè, quindi alla fine questo grosso ritorno, mi sento proprio la puzza, capito? Cioè, sento proprio questa cosa, mi sta un po' disturbando profondamente, perché mi sto rendendo conto in maniera importante è che stanno costruendo questo binario monodirezionale dal quale noi difficilmente usciremo, perché non abbiamo più le risorse né le forze, e perché ci hanno completamente diseducato non solo al pensiero critico, ma anche alla collettivizzazione di un pensiero in funzione di una battaglia, di una lotta, qualsiasi essa sia. E questa è veramente, secondo me, la sconfitta più grande di questa generazione dal punto di vista politico. Però è chiaro che le forze sono sovverchianti, no? Pure dal punto di vista dell'utilizzo dei social, della comunicazione, no? Cioè, nel senso, comunque il riuscire a organizzare, siamo stati tutti sparpagliati, tutti sgregati, no? Che è un po' come mettere fuori legge un partito politico, se ci pensate bene. Leave it all, wide awake I hear. sing. We gotta let the music play, 'cause life is still a mystery. Ammazza e schifo le canzoni stamattina, eh? Perché purtroppo questa è Antenna all'8 Epidemic Sound, che abbiamo disdetto, ragazzi. Anzi, vi ricordo di andare su www.rantimeradio.it e cercare il pulsante Anche Io e contribuire al grande progetto di Rantime Radio, che come sapete da 12 anni sforna tantissimi contenuti, lo fa gratuitamente, lo fa a proprie spese, però insomma contribuire al nostro progetto è sempre qualcosa di utile, diciamo, per l'esistenza del progetto stesso, ma questo poi ve lo ricordo insomma a fine puntata, perché è una cosa importante, soprattutto perché questi sono stati un mese e mezzo veramente drammatico dal punto di vista degli advertising, come abbiamo detto di diverse volte. Caleb dice: bisognerebbe cambiare il nostro modo di concepire il modello globale. Sì, esatto, infatti era quello che stavamo dicendo. D'altronde il sistema com'è, il sistema com'è ora lo abbiamo creato noi, è assolutamente vero. E poi Walter dice che lo sente pure lui l'odore, insomma, diciamo così. Vabbè, interviene Alex così ad cazzo, ma che tanto sicuramente lo sta ascoltando, Tori Amos. E giustamente Walter mi fa presente che lui intendeva forse i conservatori, non so, vabbè, sì, può essere. Io non assicuro conservatori, ossia li assicuro sicuramente, ma non lo so, e quindi non mi pongo il problema, perché sai come si dice, no? Occhio non vede, cuore non duole e cose del genere. Insomma, vi parlavo adesso, qui sono un po' estremo, ragazzi, quindi capisco se qualcuno si può sentire offeso, ve lo devo dire la verità, cioè capisco anche, perché in generale in questa narrazione che ogni diciamo, non so, adesso non mi viene bene il termine, però nella narrazione che fa ogni tiranno, diciamo così, ecco, forse può essere questo il termine appropriato, nei confronti delle realtà che perseguita, diciamo, c'è sempre comunque questa visione del noi siamo i buoni e voi siete i cattivi, no? Questa cosa diventa a volte talmente assoluta da diventare ideologica, non diventa più un'opinione dove c'è un dibattito magari all'interno della stessa nazione, no? Diventa una cosa assoluta sulla quale non si discute, e questo ti dimostra come oramai la democrazia a livello globale inizia a essere un concetto estremamente relativo, diciamo, è più un'esistenza funzionale che un'esistenza reale, concettuale, diciamo così, perché lo vediamo anche con Draghi, no? Draghi è andato a parlamentare con il presidente Biden, non è che ha riferito al Parlamento di che cosa sarebbe andato a parlare, ma questo comunque non è questo il tema. Io dicevo in generale, perché poi alla fine questi più sono alleati, più sono parte della nostra occidentalizzazione, di questo fascismo bianco che oramai ha globalizzato tre quarti del pianeta, metà del pianeta, facciamo metà, così almeno non ci sentiamo così troppo sbilanciati, e più tutte le singole narrazioni alla fine vengono accettate, no? Cioè, nel senso, perché c'era un famoso film dei fratelli Taviani, La massoneria delle marmotte, mi pare, oddio, adesso in questo momento mi sfugge il titolo, che parlava di quello che i turchi hanno fatto agli armeni, ad esempio, no? Quindi parlava di uno dei grandi genocidi a livello mondiale. Però non si può parlare di questa cosa, voi lo sapete che i turchi non accettano che tu dica questo, non solo lo negano, ma si indignano profondamente se qualcuno fa riferimento a quello che secondo loro non solo non è mai non è vero, ma non è proprio mai avvenuto. Cioè, nel senso, per loro c'è un vuoto storico su questa cosa, e questa negazione è talmente globale, talmente nazionalistica, che insomma meriterebbe un approfondimento. Cioè, la Turchia è uno di quei paesi che dovrebbe essere condannato per crimini verso l'umanità, però no. Perché la Turchia è la NATO, è nella NATO e siamo amici, quindi solo gli altri sono brutti e cattivi, E la stessa cosa possiamo dire su Israele, no? Io sul discorso di Israele, ragazzi, è una cosa che porto avanti da 30 anni, cioè per me, cioè da quando ho preso consapevolezza anche di questa cosa, no? Perché prima comunque io sono cresciuto in un contesto familiare dove si pensava in quella maniera monodirezionale, comunque Israele erano i buoni perché i tedeschi l'avevano sterminati e quindi comunque a prescindere loro hanno questa white card eterna con la quale possono fare qualsiasi cosa. E non parlo dell'associazione Simon Wiesenthal, del Mossad, la caccia ai nazisti, tutte quelle cose che sono atti di vendetta che però sono contenute all'interno di un determinato contesto. No, qui stiamo parlando di un sopruso, una violenza che diventa sistemica, e talmente diventa sistemica che oggi noi non la raccontiamo neanche. Se non fosse per qualcuno, e ritorniamo a quello che è la stampa in Italia, se non fosse per qualcuno, certe cose noi non le sapremmo neanche, nessuno ce le racconta, nessuno ce le spiega. Ma oggi c'è la sfortuna che il mondo è globalizzato anche dal punto di vista della connessione, delle informazioni, di tutto quelli che sono i dati che arrivano anche dalle altre parti del mondo, no? E questo è un elemento importante, ma purtroppo non è per tutti, perché mentre oggi il 99% degli italiani hanno un telefono cellulare per andare sui social a dire che il vaccino ti inietta il cancro e i microchip per controllare il tuo cervello, non sono abbastanza intelligenti per poter dire: ma fammi vedere che cosa succede nel mondo, perché non gliene frega un cazzo, perché preferisco andare su Facebook a scrivere: è qui che ci sono le putane? Perché il nostro è un paese dei vecchi, di persone vecchie che vengono introdotte a forza nella tecnologia, perché ovviamente è il modo per poterli controllare. Gli si dicono le cazzate, loro sono contenti così, duzzin, una cazzata per dire: ah, sono vergogna, e sono tutti assolutamente contenti. E quindi dicevo, insomma, la cover di questo episodio avrebbe voluto essere, mi ce l'ha anche messo un po', poi forse lo trovavo un po' oltraggioso anch'io, devo dire, anche se nel contesto della satira secondo me ci poteva stare, no? Cioè, nel senso, una bella bandiera di Israele bianca con le due bande azzurre, dove al centro invece la stella di David una bella svastica nera, no? Perché poi restituiamo a Cesare quello che è di Cesare, no? Cioè, nel senso, si dice sempre che le persone più cattive, Quelle che menano, quelle che finiscono per fare i serial killers, o quelli che poi alla fine hanno subito violenza a loro volta, no? E se questo può avere un senso dal punto di vista della giustificazione del singolo individuo, non può avere senso dal punto di vista globale, relativo a una nazione che continua ad uccidere in maniera imperterrita persone che erano lì da prima di loro, semplicemente perché quella terra gli ha detto Dio che era loro. E quindi quando metti ideologia e religione insieme è un gran casino, no? Cioè, ce la prendiamo con i talebani, ce la prendiamo con Al-Qaeda, ce la prendiamo con gli islamici, perché sono loro il nemico in quanto loro sono diversi da noi. Cioè, siccome che noi siamo la nostra religione, noi siamo più religione di loro, e quindi gli altri sono assassini. Quando invece siamo noi a essere assassini, facciamo finta di un cazzo, perché noi lo giustifichiamo come difesa, se la giustifichiamo, se no non la giustifichiamo neanche. E quello che arriva a fare Israele non è soltanto prende a schioppettate i ragazzini che gli tirano i sassi, ma arrivano anche a uccidere persone che comunque, e questo non è un errore ma è una cosa scientifica, comunque esprimono considerazioni negative nei loro confronti. Poi dicono che in Israele per tutto questo ci stanno un sacco di problemi dal punto di vista politico, perché chiaramente insomma sto governo così non può reggere, anche perché c'era finalmente un partito arabo che sosteneva il governo e che ovviamente adesso si ritirerà dal Parlamento e probabilmente farà cadere il governo, riandranno alle elezioni, rivincerà un'altra volta la destra, perché ricordiamoci che ed è questo che stiamo a parlare. Però noi non ne parliamo di questa cosa, perché Israele c'ha ragione, mentre Putin sono due mesi che sta bombardando soltanto delle scuole, degli asili nidi e degli ospedali infantili, perché questo a me questo mi arriva, quindi non accendo la televisione, poi spengo subito e poi leggo magari i giornali e via dicendo, che vabbè, pure lì Però mentre invece Israele può sparare a chiunque, può fare qualsiasi cosa perché c'ha questa white card eterna che noi abbiamo consegnato in quanto perseguiti da un regime che non esiste più, in un contesto storico che non esiste più e che va ricordato sempre e comunque, che va assolutamente demonizzato sempre e comunque, ma che non può essere la giustificazione eterna per fare le stesse cose. Quindi sulle mani, no? Cioè l'estate arriva e sulle mani, dagli così, forse è coraggio. C'era anche un altro tema di cui volevo parlare ma me ne sono dimenticato perché ho riavviato il computer ieri sera e non avevo salvato il file txt. E vabbè, sono cose che succedono, ragazzi, ma non è che ci possiamo colpevolizzare di tutte queste cose. Però insomma, ecco, insomma, quello che volevo dire poi alla fine è un po' la tristezza, diciamo, che mi accoglie in questo momento, è proprio dovuta al fatto che secondo me siamo arrivati a un punto di non ritorno anche da questo punto di vista, non solo dal punto di vista climatico, ma dal fatto che sicuramente difficilmente riusciremo a riemergere da questa situazione così stretta e globalizzante rispetto a un pensiero unico collettivo, rispetto a chi può sparare a chi e perché. E poi in realtà, ragazzi, se ci pensate, ci hanno talmente influenzato dal punto di vista culturale, col cinema, con la televisione, dove si raccontavano sempre storie di vendetta, dove la vendetta è giusta, tutto sommato, no? E questo è un dato di fatto abbastanza amaro da un certo punto di vista, perché questa cultura che non ci apparteneva in qualche maniera si è insinuata. E quindi alla fine lo so che sono monotematico, lo so che sono abbastanza ripetitivo da questo punto di vista, però purtroppo gli americani sono forse il più grosso dei problemi che questo mondo oggi ha, con quella cultura, con quell'atteggiamento supremazista e soprattutto con quell'approccio imperialista, dove adesso che poi questa è la cosa che io vorrei che voi tutti ragionaste, e che ha messo e non concesso giustamente che la Russia vada comunque fermata in qualche maniera rispetto a quello che è un atto d'aggressione verso uno stato vicino, e che non può passare così inosservato, perché chiaramente poi diventerebbe il pretesto per chiunque, no, a quel punto, cioè senza tanto nessuno fa niente, sti cazzi si incazzano e basta, finisce lì. Però detto questo, il problema della Russia è un problema europeo, perché quello che noi ci stiamo facendo raccontare dagli americani è che loro sono un altro mondo, sono il mondo dall'altra parte, sono il mondo dei nemici, sono il mondo oltre quel muro immaginario che non esiste più. In realtà non è così. Per buona parte della Russia, la Russia è un paese europeo, è un paese culturalmente europeo, vincolato e storicamente incentrato su quello che è la storia dell'Europa, a modo loro, con la loro visione, con il loro modo di fare, ma sicuramente è un paese europeo ed è un problema europeo che noi europei dobbiamo risolvere. Senza l'ausilio, il supporto e soprattutto lo sprono degli americani, che giustamente in questa situazione non hanno visto altro che un pozzo di Nutella nel quale andarsi a infilare e godere a tutto spiano, perché ovviamente tutto è a vantaggio loro. È a vantaggio loro il fatto che più dura questa guerra e più la Russia si indebolisce. È un vantaggio loro perché ovviamente l'Europa deve trovare risorse altrove e quindi ricostruire quei vincoli dai quali noi ovviamente ci eravamo allontanati. E questo atteggiamento, grazie a Dio, ed è l'unica volta in cui sono stato contento e sono contento che l'Europa non è così ipercoesa da un certo punto di vista, è proprio in questa situazione qui, dove ovviamente c'è anche gente come Macron, ma non soltanto, all'interno del dibattito politico, dei dibattiti politici nazionali, che viva Dio ancora un po' esistono, c'è qualcuno che dice: ragazzi, questo non è questa la soluzione per risolvere questo tipo di problema, e soprattutto non è un problema degli americani, ma è un problema più europeo. Quindi ecco, io quello che mi auguro è che questo fronte, perché insomma, da quello che abbiamo capito, poi alla fine Draghi, quando è andato da Biden a prendere, come diceva Walter Sbano, la comanda, diciamo così, in realtà quello che ha cercato di dire poi alla fine è che gli italiani e gli europei sta guerra non la vanno, e non vanno continuare con questo atteggiamento, ma vorrebbero trovare la soluzione diplomatica, che è comunque l'unica soluzione. Invece quello che sta facendo la NATO è una pressione verso l'Ucraina per continuare questo tipo di atteggiamento e questo tipo di approccio, perché chiaramente mentre l'Ucraina pensa di guadagnarne in un futuro, perché pensa di guadagnarne, in realtà non solo sta facendo il gioco degli americani, ma lo sta facendo due volte, perché questo forte, profondo indebitamento che loro stanno subendo nei confronti degli americani, e che è lo stesso che abbiamo subito tutti noi europei dopo la Seconda Guerra Mondiale, non farà altro che far diventare l'Ucraina l'ennesima colonia del cazzo degli americani. Ed ecco su questo che bisognerebbe riflettere. Ma siccome Zelensky, e qui poi dopo ritorniamo a un pensiero che Walter abbiamo comune, questa narrazione di questa guerra che un po' c'è, un po' non c'è, un po' se muore, un po' no, un po' si sembra strano perché arrivano i tizi che vanno a suonare sotto la metro di Kiev, e poi c'è sta Zelensky che va in giro per la città con il suo regista privato a fare questi video emotional con la musichetta sotto. Ragazzi, ma di che cazzo stiamo a parlare? È questo che a me poi alla fine mi... ecco, insomma, vabbè, non volevo parlare della guerra oggi, però poi alla fine vabbè, ritorno fra un minuto che prendo un attimo un goccio d'acqua e poi ci salutiamo. Ammazza, oh, stamattina sono andati proprio bene con la musica. Sono proprio. No, Francesco dice: ma la vendetta ci appartiene, come mica sono arrivati gli americani? No, non è questo che intendevo. È chiaro che la vendetta esiste ed è sempre esistita, però nel senso globale non è una nostra cultura in senso assoluto. E non parlo di, come posso dire, predisposizione antropologica, io dico proprio in generale. Comunque il nostro modo di vivere, la nostra visione della vita è diversa da quella degli americani, ma lo vedi già da quelli che sono, cioè nel senso, noi in Europa non abbiamo avuto mai l'abitudine di avere delle armi in casa, ad esempio, a meno ovviamente a parte determinate eccezioni, e non ne sentivamo neanche il bisogno, non abbiamo mai pensato di ah beh, oh, ragazzi, bisogna assolutamente armarci tutti, no? Tranne ovviamente negli ultimi periodi, con tutta l'ideologia ovviamente che alla fine è passata, ha rotto anche questo muro, no? Poi alla fine era questo quello che intendevo dire, cioè non penso al fatto che non esista la vendetta, essere arrivati gli americani e ce l'hanno importata, diciamo così. Però vabbè, questo è un po' un discorso mio, non c'è nessuna valenza da un punto di vista scientifico. Pure se la Russia non fosse uno stato europeo, non vedo differenze. La globalizzazione, che mi piace, non prevede differenze geografiche nel dover aiutare o risolvere problemi. Sì, è un po' aleatorio sto concetto, nel senso assoluto sono d'accordo, nel senso più specifico è ovvio che comunque chi ha più correlazione culturale con una determinata realtà dovrebbe avere un posto in prima fila nel diciamo sostenere o non sostenere determinate situazioni, perché hanno più chiavi di lettura rispetto al modo di sbloccare determinate crisi o determinate situazioni. Io la vedo così, è proprio una questione proprio di affinità. Un paese completamente diverso, che è stato geopoliticamente è stato politicamente avversario per 70 anni di un'altra nazione, non può avere una posizione chiara, netta e progressiva, diciamo, da un certo punto di vista, per la risoluzione del problema, perché quelli per loro sono sempre dei nemici. E se noi ci facciamo continuare a raccontare questa storia che loro sono i nostri nemici, quando noi sappiamo benissimo che potrebbero benissimo non esserlo, appunto, e allora il discorso comincia a cambiare. Cioè, gli americani affrontano questa problematica dal loro punto di vista, che è economico ed è culturale, perché cercano di trarne qualsiasi tipo di vantaggio in questo momento, mentre che l'Europa ha un interesse proprio legato all'integrità stessa dell'Europa. E continuare a promettere a stati a cazzo de cane di entrare in una NATO che non ha più senso di esistere, così com'è, che andrebbe riformata, come quando Putin chiese l'ingresso nella NATO, nessuno che l'aveva preso sul serio, ah sì, è arrivato questo, ah, questo vuole far casino, capito? In realtà noi in questa narrazione abbiamo bisogno del cattivo, è proprio fisiologico, c'è bisogno che ci sia qualcuno che sia un cattivo, e questo cattivo in questo caso è lui, poi un giorno sarà qualcun altro, perché chiaramente ogni volta che si attenua la cattiveria di un cattivo se ne va a cercare un altro. E non è un caso che questo mondo è continuamente in uno scontro culturale tra Oriente e Occidente, perché ci fa comodo così, non perché è realmente così, lo è sicuramente così, ma invece di andare verso un'attenuazione, verso un dialogo, verso una comprensione delle differenze, noi andiamo sullo scontro. Andiamo perché lo scontro ci aiuta a essere compatti, integri in qualche maniera, ci aiuta a rafforzare il nostro sistema, a vederci come privilegiati, a vederci come quelli sotto attacco, a vederci come quelli illuminati, perché noi abbiamo costruito un sistema di vita migliore degli altri. E questo non è in senso assoluto vero, perché l'essere, avere un sistema migliore, avere una vita migliore, avere uno stile di vita migliore, dipende anche dall'approccio culturale, non dipende soltanto dal fatto che noi, gli americani, escono di casa e lasciano le luci accese e vogliono che sia così perché quello è il loro sistema, perché quella è la loro scelta. Ecco, volevo dire questo, insomma. Poi vedo che Francesco ha scritto altre 50 cose, Me le leggo e me le terrò come appunto la prossima puntata di Buongiorno un cazzo, perché in questo momento sono un po' tipo arrivato. Scusa Francesco, abbi pazienza, sono sicuro che adesso mi prendo, mi copio in collo quello che tu hai scritto e magari poi ne riparliamo, insomma, giovedì prossimo Buongiorno un cazzo. Nel frattempo io vi ricordo che questa sera dalle ore 8 alle ore 8:45 ritorna con l'ultima puntata della settimana delle Orazioni della Sera Walter Sbano. Vi ricordo, come vi ho già detto, che questa sera alle ore 21:15 su Twitch, andate su Twitch e cercate Runtime Radio, ci trovate subito, quindi iscrivetevi anche lì, seguiteci e via dicendo, faremo questa prima puntata esclusiva. Ti ricordi quel cartone? Due punti, Capitan Harlock. Guarderemo insieme Capitan Harlock e lo commenteremo cercando insomma di fare un po' di paragoni su quando eravamo ragazzini e come vediamo oggi quel tipo di opera, sempre che sia fattibile e che Twitch non ci banni, ma è anche un modo per capire quello che si può fare e non si può fare su Twitch, perché come abbiamo detto questo è un momento di grande sperimentazione per Runtime Radio, quella grande sperimentazione che ci porta a provare degli strumenti nuovi così come stanno facendo altri. Vi ricordo insomma di andare su www.runtimeradio.it, sul pulsante anch'io, se volete potete sostenere il nostro progetto contribuendo con un versamento una tantum su PayPal o oppure abbonandovi a Patreon e utilizzare quel sistema come forma di contribuzione ricorrente. Abbiamo anche altri sistemi come Ko-fi, che però adesso con Francesco stiamo lavorando in modo da lanciare una sorta di campagna in sostegno della creazione dell'associazione di Runtime, che dopo 10 anni insomma e più anni insomma è anche ora è arrivato quasi il momento di fare questa scelta, diciamo così. Detto questo, io penso di ringraziare tutti quanti, spero che sia una buona giornata per tutti, spero che ci siano anche delle buone notizie, si va verso il fine settimana, vi aspettiamo questa sera alle 21:15 e Marco Gualdi per parlare di Capitan Harlock. Detto questo, dai forza e coraggio e come sempre, dico da tantissimi anni, alla via così.